prima dell'ombra. Allora, qui c'è l'io, e questo è il discorso tipico della psicologia occidentale, qui c'è l'ombra. Cioè l'inconscio inferiore dove ci sono i nostri demoni, le nostre parti cattive, meno amabili, e non le possiamo vedere per timore del giudizio, quale? Degli altri ovviamente, ma soprattutto cosa vuol dire? Il nostro giudizio interno. Questo che vale per le zone basse della coscienza vale anche per gli aspetti superiori della coscienza. Noi abbiamo, siamo separati da questi aspetti qua. Sì. Non riusciamo a contattare, ecco questa che la chiamiamo scintilla divina, chiamiamo il nostro sole interiore, ecco, ne siamo separati, non lo vediamo, lo pensiamo inesistente. Eccolo qua che ritorna allo void di Assagioli. Come vedi c'è l'inconscio inferiore, ma c'è l'inconscio superiore. Conscio superiore, inconscio, non è una parola usata a caso, vuol dire che sono le nostre qualità più elevate che non vediamo, più che quello che... Quello che è valido per l'ombra, diciamo, inferiore, cioè noi la proiettiamo sugli altri. Sì. Vale anche per l'ombra superiore. Noi la proiettiamo. Cioè, a noi. Esatto, gran parte dei fenomeni religiosi, l'adorazione dei santi, le cose, che cosa sono? Sono figure esterne sulle quali noi proiettiamo le nostre qualità che non ci riconosciamo. Che non riusciamo ad ammettere, ne abbiamo paura, non ce lo possiamo permettere perché ci sentiremo falsi, ci sono mille ragioni. Sì. Allora, le figure esterne, dei maestri, dei santi, hanno una funzione fondamentale per un periodo della vita perché ci consentono comunque di vedere fuori ed essere attratti da qualcosa verso cui comunque saremmo attratti, che c'è impossibile se la vediamo dentro. Ecco. Questo è un fenomeno universale. Ecco, naturalmente per alcuni i fenomeni religiosi sono solo fenomeni di proiezione, sì, ma non dell'inconscio superiore, ma dell'inconscio infantile inferiore, della fusione con la mamma. Quindi siccome non riusciamo a trovare più quell'ambiente lì, per questo desiderio lo proiettiamo fuori e pensiamo che fuori ci sia un Dio pronto ad accoglierci e a crearci un paradiso. Ora, nella visione orientale, noi siamo il tutto. Cioè il sé, che cosa vuol dire? La totalità.